Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia. Il nostro numero verde è già attivo, 824 0024. Giorgio Mattei pronto in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo ai titoli del nostro sommario. Anche il naso ha i suoi problemi, non trascuriamolo. Ad ogni piede la sua scarpa. Avena, un cereale per amico. Naso chiuso, naso gocciolante, naso che pruda, che si secca, che sanguina, che non piace, naso che non sente. Insomma, sembra impossibile che questa piccola proboscide che madre natura ci ha regalato e piazzato nel bel mezzo della faccia riesca nel suo piccolo a darci tutti questi problemi. Eppure ce la fa. Ma noi proveremo a convincerla con le buone, naturalmente, a comportarsi bene e a funzionare a dovere. Ci aiuteranno tanti esperti. Vi presento subito il professor Marco Benazzo. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno. Direttore della clinica otorino laringoiatrica alla Fondazione San Matteo di Pavia. Professore, ne avremo di belle da raccontarci. Io inizierei, se lei è d'accordo, dal naso chiuso. Troppo facile però dare la colpa al raffreddore, perché ci sono persone che hanno questo disturbo anche in tempi non sospetti. Sì, il naso chiuso è uno dei sintomi che più frequentemente porta il paziente alle nostre visite otorinolaringoiatriche. E per naso chiuso si intende una serie di patologie veramente molto diverse, diversificate fra di loro, molto numerose, di varia natura, che possono appunto provocare questo sintomo, che effettivamente è un sintomo fastidioso e spesso purtroppo non è un sintomo di facile risoluzione. Non ci dà delle buone notizie. Allora proviamo a ipotizzare alcune situazioni, professor Benazzo. Fa differenza se il problema è avvertito in una sola narice oppure in tutte e due? Sì, sì, fa molta differenza. Perché, non solo perché si respira meglio. No, fa molta differenza e soprattutto quando a noi specialisti arriva un paziente che ci sottolinea questa situazione di naso chiuso, la storia clinica del paziente è molto importante, anche perché il naso, come lei ha detto, una piccola proboscide, comunque ha una fisiologia e una fisiopatologia veramente molto complicata, perché contiene delle strutture nasali che possono essere strutture dinamiche e strutture invece fisse, strutture ossee, cartilagine. Quindi a seconda di dov'è il problema, i sintomi possono essere diversi e le due narici, che pur dovrebbero funzionare contemporaneamente nello stesso modo, possono non avere un normale funzionamento. Ecco. 824 0024, questo è il nostro numero verde, i messaggi al 349 238 6666. Professore, ci sono delle persone che avvertono questa sgradevole sensazione in un momento particolare della giornata. Ad esempio Giovanni dice che a lui si tappa il naso sempre alla sera prima di addormentarsi, e questo naturalmente, immagino, gli crea un po' di fastidio. Ma ogni momento della giornata è buono, ma ci dice qualche cosa di questo disturbo, immagino? Beh, questo è un tipico esempio di una alterazione del normale funzionamento di quelle strutture che noi consideriamo dinamiche nel naso, che si chiamano i turbinati. Sì. I turbinati sono delle strutture appunto che si vasodilatano e vasocostringono, perché sono contemporaneamente sotto il sistema ortosimpatico e parasimpatico, che sono i due sistemi diciamo tra virgolette nervosi che regolano vari organi, tra cui il naso, e che hanno un effetto uno opposto all'altro a seconda di tutta una serie di determinate situazioni. E per esempio molto frequente la posizione da sdraiato, quindi di notte il naso, i turbinati vasodilatano e quindi aumentano le loro dimensioni. È facile avvertire il naso chiuso. E quindi aumenta la sensazione di naso chiuso, quindi se già un paziente può avere dei turbinati già vasodilatati per aumentati di dimensioni già per fisiologicamente, di notte casca l'asino, quindi certo, la situazione peggiora. Quindi al nostro amico potremmo dire che l'origine del suo problema potrebbero essere appunto questo malfunzionamento dei turbinati. Certo. Ma ci sono molti altri indizi che voi potrete raccontarci, quindi potrete mettere il nostro esperto, il professor dottor Benazzo, nella condizione di suggerirvi una possibile strada, un esame da fare. 824-0024. È un po' raffreddato anche lei, professor Benazzo, vero? Sì. Bene, questo la rende molto più simpatico, anche allergico. Allora, se il vostro naso fa un po' i capricci come quelli del nostro professor Benazzo, oppure non funziona, perché si tappa, perché gocciola, o fa una serie di una raffica di starnuti, un po' come capita a me nei momenti meno opportuni, chiamateci. Ma intanto provate a pensare anche se lavora bene, se cattura bene gli odori, o se al contrario vi sembra che il vostro olfatto sia un po' addormentato, perché parleremo anche di questo insieme al professor Benazzo. Il numero verde è 824-0024. Aspettiamo le vostre chiamate. Una mela al giorno. Adesso distogliete un attimo il pensiero dal vostro naso e concentratevi invece sui vostri piedi, dato che immagino, visto il freddo, non siate a piedi nudi, guardate le vostre scarpe. State indossando quelle giuste, che piacciono anche ai vostri piedi oltre che a voi? Bene, questo è un dettaglio importante, come ci spiegherà il professor Walter Albisetti. Buongiorno professore, che è tornato a trovarci. Buongiorno a voi. Associato all'Università degli Studi di Milano, lavora all'Istituto Gaetano Pini ed è ortopedico del Teatro alla Scala di Milano, professore. Iniziamo subito con il dire che una posizione scorretta del piede potrebbe anche avere delle ripercussioni, oltre che sul benessere del piede, anche sulla salute di ginocchia, schiena e collo, per cui attenzione alla scarpa che indossiamo, giusto? Giusto. Quindi possiamo anche però fidarci del detto che la scarpa giusta è quella più comoda, o ci sono delle precisazioni da fare? Ma sì, in parte no. La scarpa giusta è quella che permette al piede di avere un buon passo, una buona biomeccanica, sì, ammortizzare i traumi da impatto e quindi permettere un corretto appoggio della pianta del piede. Quindi non deve essere troppo stretta, la tomaia deve essere traspirante e la suola deve ammortizzare il cammino. Vogliamo avere da lei consigli per tutti i piedi e per tutte le età. Quindi, professore, io inizierei dai più piccoli. Come possiamo orientarci? Beh, partiamo dal presupposto che i piccoli è importante che camminino a piedi nudi e devono indossare le scarpe solo quando iniziano a camminare. E quindi le scarpe devono soddisfare alcune caratteristiche generali. Poi uno può mettere un tipo di scarpa e un altro tipo. L'importante è che abbiano la suola flessibile, sì, il contrafforte, cioè quello che c'è sul calcagno, che sia bello robusto, e la tomaia sia traspirante. Certo. Questo nel piede fisiologico, nel piede normale. Sì, dove non c'è una patologia. Se c'è una patologia, allora si fanno le scarpe specifiche. Altrimenti è inutile mettere delle scarpe specifiche se non c'è patologia. Dai più piccoli, professor Albisetti, facciamo un passo, è proprio il caso di dirlo, in avanti, arriviamo ai ragazzi. E io, che vivo un po' vedo un po' molti adolescenti in casa, vedo che tutti portano le scarpe da ginnastica, spesso slacciate, con la suola piatta. Magari aperte, si usano così adesso, caro professore, le stringhe non si allacciano più. Comunque, i ragazzi, è difficile convincerli a indossare un altro tipo di calzatura, ma rischiano qualcosa? Ma fondamentalmente le scarpe nel ragazzo, cioè un adolescente, dovrebbe soddisfare alcune situazioni, no? Cioè la calzabilità, cioè che sia portata bene, e l'attività sportivo-motoria, perché il ragazzo oltre a camminare gioca anche. Quindi le scarpe devono avere alcune caratteristiche: un buon appoggio, sì, una resistenza, una buona aderenza al terreno, un buon sostegno del calcagno, come quello che devono avere i ragazzini, ma in più deve avere proprio questo buon appoggio, la resistenza, sì, il contrafforte che ammortizza il carico e sostenga la pianta del piede. Certo. Quindi che dire delle scarpe, cioè quando la suola è sottile, piatte, non sempre soddisfano queste situazioni, ecco. E ci arriva un messaggio da Maria perché dice anche che puzzano le scarpe dei ragazzi, ma insomma le scarpe da ginnastica. L'importante nelle scarpe, specialmente in adolescenti, è proprio intervallare periodicamente il tipo di scarpe. Se uno vuole mettere per una situazione di sua o di gruppo le scarpe magari alla moda in quel gruppo, è importante che a intervalli li cambi spesso con altri tipi di scarpe. Ecco, non tenere sempre sulle stesse scarpe, cambiare, altrimenti comunque si formano dei, certo, funghi e poi puzzano. Senta, professore, abbiamo parlato anche di puzze, ma torniamo invece a dei piedi che non puzzano mai, quelle di noi donne, gentili, eleganti. Noi amiamo i tacchi, voi un po' meno, ma ultimamente ho capito che il tacco giusto ce lo lasciate, vero professore? Sì, se non sono altissimi i tacchi non hanno grosse controindicazioni. Importante vedere la postura del corpo, sì, e in particolar modo la colonna, che spesso non ci si pensa. E in base a quello si può anche valutare l'altezza del tacco. Sì. Cosa voglio dire? Cioè, se una persona ha una iperlordosi, no? Cioè quando la colonna lombare è arcuata, molto arcuata, il tacco è quindi utile, il sedere molto in fuori. Quindi per loro, scusi, e quindi è importante perché l'appiombo è corretto. E quindi è possibile mettere, importante non esagerare fondamentalmente, e poi non mantenerle addosso per troppo tempo, per periodi troppo lunghi. Cosa vuol dire? Altrimenti se uno tiene tutto il giorno, tiene le scarpe tra virgolette da sera anche tutto il giorno, rischia la metatarsalgia, la il mal di schiena, eccetera, eccetera. Però anche qua non è tanto solo l'altezza del tacco, è che il tacco deve essere stabile, perché magari anche un tacco basso ma instabile, sì, allora questo ti porta ad avere una instabilità della caviglia, del piede. Certo, quindi, scegliere... non demonizziamo il tacco alto. Un tacco alto, ma un tacco, ma bello stabile, giusto. Senta, e per ultimo chiudiamo con voi uomini. Lei che scarpe porta, professore, che di scarpe se ne intende? Allacciate o mocassino? Perché? Io le porto con le stringhe, perché? Perché è il piede che deve condizionare la scarpa. Ecco, va chiarito una volta tanto, anche se sembra ovvio, e non la scarpa che ci deve condizionare il piede. Sì. Io ho un piede cavo, in questo caso, e quindi il mocassino a me dà fastidio. Sì. Ma solo perché ho piede cavo, non perché non mi piaccia o perché il mocassino non vada bene. Quindi dove c'è un piede cavo, cosa vuol dire? Quando si dice in gergo collo del piede alto? Sì. Allora stringe il mocassino e questo può dare dei fastidi, però sia il mocassino che la scarpa stringata sono ottime paia di scarpe, sempre con quelle caratteristiche che abbiamo detto prima. Allora vogliamo fare proprio velocemente un riepilogo? Allora... La scarpa ideale deve... Magari sembra ovvio, però la scarpa deve essere comoda, sì, la tomaia deve essere traspirante, sì, la suola deve essere ammortizzante, la stessa suola non deve essere scivolosa. Sì. Il contrafforte, cioè il calcagno, deve bello essere solido. Tosto, sì. Le dita devono potersi muovere, non devono stare lì attrappite. Questo è veramente importante sottolinearlo, perché quando andavano perché di moda le scarpe mai a punta, avevamo queste dita strizzate. Va bene, quindi dita comode che si le possono muovere. Si devono poter muovere, non deve stringere proprio al collo del piede. E i materiali devono essere materiali giusti, cioè che non portino dermatiti o eczemi, queste cose. E poi, secondo me è importante, la scarpa che indossiamo ci deve anche piacere. È vero, professor Albisetti, ci deve anche piacere. Io la ringrazio. Grazie a voi. Ci ha messo un po', come si dice, le ali ai piedi. Intanto ci sentiamo presto, un saluto e buona giornata. Grazie, grazie a voi. Pronto soccorso. Eccoci, noi siamo tornati insieme dalle scarpe, torniamo al nostro naso che è tappato, ma cerchiamo di capire perché e come fare per respirare meglio. Ci aiuta il professor Marco Benazzo. Professore, cerchiamo un po' di respirare meglio prima di andare dal medico. Normalmente se il nostro naso inizia a darci qualche problema, cerchiamo un po' di attrezzarci. La prima cosa che ci viene in mente di fare è di decongestionare il naso, quindi usiamo magari spray, i lavaggi nasali, facciamo l'aerosol, facciamo bene o facciamo male? No, non si fa male, ci mancherebbe. Sì. Il problema ma sa di... che lei con questa voce è perfettissimo oggi per parlare di naso. Mi sono preparato apposta. Quindi? Devo trovare un otorino che mi visiti. Sì, lanciamo un appello. Dal punto di vista di questi tipi di terapie tutto va bene, nel senso che spray, inalazioni, aerosol, lavaggi vanno bene, l'importante è non abusarne. Per quanto riguarda il naso, la cosa importante, l'aerosol per i problemi nasali non è perfettamente indicato se non in particolari condizioni, perché l'aerosol fa uscire una soluzione fredda e con delle particelle talmente piccole che vanno a finire direttamente a livello delle basse vie aeree, quindi l'aerosol è più indicato per problematiche delle basse vie aeree, sì, più che delle alte vie aeree, mentre invece il naso ha bisogno di roba calda, calda umida, quindi il vecchio pentolino dell'acqua calda col bicarbonato della nonna, oppure esistono in commercio degli inalatori dove fanno uscire, dove si praticamente scaldano delle soluzioni, che possono essere anche quelle soluzioni termali, vanno bene per il naso. I lavaggi nasali vanno bene, soprattutto nel bambino, con soluzioni fisiologiche oppure soluzioni isotoniche, vanno bene, però servono solo per il lavare il muco, quindi non asciugano le forme scatarrali. Esistono delle soluzioni che asciugano, tipo vecchio argotone, l'argento proteinato, queste soluzioni che possono andare bene e che hanno invece lo scopo di far respirare meglio, perché hanno un effetto vasocostrittore e creano, appunto, asciugano le secrezioni. E poi ci sono tutti quelle farmaci da banco che di vasocostrittori puri, che di cui non si deve assolutamente abusare, che nelle fasi acute possono essere usati perché effettivamente danno una vasocostrizione sui turbinati tale da permettere una buona respirazione, ma che alla lunga possono creare invece dei grossi problemi. Sì. Quindi non usarli, invece non per abusarli. Alcune persone diventano un po' dei compagni quotidiani. Sì, questo è il problema, perché se non ci si riesce a distaccare nel giro di qualche settimana questi farmaci, allora è meglio fare una visita a Torino, ecco, e prendere in considerazione il problema. Ecco, chiamateci se invece vedete che state continuando a utilizzare questi prodotti, perché magari il professor Benazzo può darvi delle indicazioni. Intanto andiamo a Como, ci chiama Gianluca, 824 0024. Gianluca, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno. Niente, la domanda che volevo fare al professore era questa. Visto che io oggi rientro proprio da una visita di allergologia. Ma dai. Sì. Perché appunto, avendo sempre questo raffreddore, naso sgocciolante e via dicendo, pensavo fosse un problema allergico. Sì. Cosa che non è, e il dottore mi dice: guarda, che molto probabilmente è un problema di naso. Sì. La domanda che volevo fare appunto era quella: che problema può avere il suo naso, che gocciole, lui non è allergico? Grazie Gianluca. Grazie, professore. Innanzitutto va sottolineato che l'allergologo deve lavorare in stretto contatto con il rinologo, l'otorino che si occupa di problemi nasali, perché esiste una diretta correlazione tra sintomatologia e patologie nasali. Sì. L'altro concetto, che è un concetto abbastanza moderno degli ultimi anni, è che una volta si etichettavano queste forme di rinite come rinite vasomotorie. Sì, no? Invece adesso si parla di iperreattività nasale, cioè in pratica esistono tutta una serie di patologie che vanno, come può essere quella del signore, dove la sintomatologia importante è il naso che gocciola, che si chiama rinorrea, oppure gli starnuti o il prurito nasale, e facendo comunque le prove allergologiche poi in realtà non trovi delle allergie vere e proprie, però comunque questo paziente, questo signore però creda che è molto fastidioso. Sì, è molto fastidioso, e probabilmente ha un quadro di iperreattività nasale che comunque vada trattato inizialmente come una forma allergica, quindi con degli spray locali a base di cortisone o anche delle terapie antistaminiche per via generale o terapie cortisoniche. In ogni caso il signore, se non l'ha ancora fatto, deve fare un'endoscopia nasale, cioè deve andare dallo specialista, perché bisogna escludere tutte quelle patologie, vedersi polipi nasali, tanto per intenderci, che possono invece creare questo tipo di problema. Quindi, oltre alla visita allergologica, consiglierei al signore di fare una visita anche a Torino. Una visita proprio al naso. Sì. Andiamo da Simone, che ci chiama da Roma, 824 0024. Simone, buongiorno. Buongiorno a voi. Come sta il suo nasino? O nasone o naso? Nasone. Nasone. Un naso importante. Affascinante. Diciamo durante il giorno, indistintamente, sia il giorno che la notte, sia al momento di coricarmi, si alterna l'ostruzione da una parte o dall'altra. E lei cosa fa, Simone? Russo durante la notte. Simone, chiediamo al professor Benazzi. In parte anche un altro ascoltatore, mi sembra, si ritrovasse in una situazione simile a Simone, professore. Questa è una problematica tipicamente dei turbinati, che, come dicevo prima, si vasodilatano e si vasocostringono alternativamente. Quindi questo è un naso che va gestito e va trattato sui turbinati per cercare di creare una decongestione dei turbinati. E si riesce, insomma. Si riesce riesce con le terapie mediche e adesso si riesce con le terapie con laser. Siamo tornati insieme. Se il vostro naso vi dà qualche problema, questo è il vostro momento. Potete chiamare il nostro numero verde 824 0024. A disposizione abbiamo il professor Marco Benazzo. Ma prima di passare le vostre domande, andrei insieme a voi a sentire le novità che arrivano dal mondo della ricerca e della medicina. GR Salute. Autismo. Ricercatori dell'Università Cattolica e dell'Università di Cagliari hanno individuato per la prima volta degli speciali marcatori nella saliva. Professor Massimo Castagnola, ordinario di chimica e biochimica clinica all'Università Cattolica di Roma. Lo studio effettuato ha messo in evidenza come alcune proteine salivari in alcuni bambini autistici sono fortemente modificate. Questo evento e questo studio non pone dei problemi per il cavo orale, ma piuttosto ci dà dei suggerimenti in quanto il processo di secrezione di queste proteine può essere un processo di secrezione che funziona male anche a livello del sistema nervoso centrale. Pertanto noi riteniamo che questo studio possa darci delle indicazioni preziose per cercare di comprendere i motivi di sviluppo di questa patologia di cui finora non si sa quasi nulla. Sperimentato con successo un vaccino su pazienti affetti da linfoma non Hodgkin indolente, dottor Massimo Di Nicola, ricercatore all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. È uno studio pilota, questo che abbiamo recentemente pubblicato, in cui i pazienti con un tipo particolare di linfoma, un linfoma indolente, un andamento clinico lento, può trovare beneficio dall'utilizzo di un procedimento di immunoterapia in grado di attivare il sistema immunitario nei confronti delle cellule tumorali e indurne la morte. Il risultato è stato molto buono perché circa il 30% dei casi con questo tipo di linfoma ha ottenuto un beneficio dall'utilizzo di un vaccino che non ha nessun effetto collaterale, al contrario dei trattamenti di chemioterapia attualmente in uso. Le prospettive future saranno quelle di indurre innanzitutto una risposta della malattia, renderla molto piccola da un punto di vista volumetrico e successivamente utilizzare questo tipo di approccio innovativo. E torniamo a parlare dei piccoli e grandi problemi del nostro naso. Professor Benazzo, ci eravamo lasciati ai turbinati e devo dire che i turbinati hanno scatenato un po' la curiosità dei nostri ascoltatori. Sono arrivati tantissimi messaggi chiedendo se sono solo responsabili del naso tappato oppure anche solo del naso che gocciola e come si fanno a curare e soprattutto a vedere quali sono gli esami. Facciamo allora un focus sui turbinati e poi passiamo anche a un altro problema che sono i polipi. Professore. I turbinati sono delle strutture che noi tutti noi abbiamo nel naso, si trovano sulla parete laterale del naso e sono tre per narice, turbinato inferiore, medio e superiore, sì. Sono formate da tessuto diciamo cavernoso, cioè tessuto pieno di sangue che, come dicevo prima, è sotto il controllo dei due sistemi nervosi per cui si vasodilatano e si vasocostringono, sì. E sono ed è la componente dinamica del naso, quindi sono la corresponsabile di gran parte di quei sintomi di cui lei ha appena finito, che ha appena finito di elencare. E da un punto di vista strumentale come si vedono? Si vedono tutte le visite a livello nasale devono essere eseguite con l'endoscopia. L'endoscopia ormai è il mezzo attraverso cui noi otorini riusciamo a scoprire tutta una serie di patologie che fino a qualche anno fa erano non si potevano vedere. Non è un esame invasivo, si tratta di una piccola... viene eseguito con delle fibre ottiche rigide molto sottili che possono andare da 3 mm a 4 mm e mezzo oppure delle fibre ottiche flessibili e possono essere eseguite anche nei bambini per andare a vedere soprattutto se il problema delle adenoidi anche perché va considerato che il naso non è fatto da quella parte che noi vediamo esteticamente, quella è la minima parte del naso, il naso poi va ben il bello più, ha da venire, esatto, il naso va ben più in profondità, quindi con le fibre ottiche noi riusciamo ad andare a visualizzare tutta una serie di situazioni più profonde. Come si curano i turbinati? I turbinati si curano con quei farmaci di cui abbiamo parlato, lavaggi, vasocostrittori, antistaminici, oppure spray al cortisone, sì. E da un punto di vista chirurgico la procedura più innovativa, più che da qualche anno ormai nei grossi centri si esegue, è il trattamento in anestesia locale, in day hospital, molto semplicemente, con varie tecniche, possono andare dal laser, con le tecniche con laser, tecniche con le radiofrequenze, sono tutte procedure assolutamente mini-invasive, non che richiedono ricoveri, non richiedono tamponamenti nasali, il cosiddetto famoso tamponamento nasale che non lo fate tanto più. Fa male, e che della durata di pochi minuti. Quindi, descritta così sembra quasi una passeggiata, professor Benazzo. Il trattamento dei turbinati ormai è una passeggiata. Una passeggiatina, centri, sì. Una passeggiata per voi che lo fate, ma no, il turbinato guardi, è sempre anche, nostro. No, anche per i pazienti, nel senso che se gestito bene... Sì. Anche l'anestesia, tanto per fare un esempio, si fa un'anestesia di contatto, sì. Neanche un'anestesia di infiltrazione, come tanto per intenderci l'anestesia che usano i dentisti, quindi il trattamento dei turbinati è veramente un trattamento che ormai è diventata semplice. Professore, però proprio andando dall'otorino, facendo una visita, possiamo scoprire di avere dei polipi nasali, ma prima ho alcune telefonate da passarle. Antonino ci chiama da Milano. Antonino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prima dei polipi, il suo naso. Sì, io volevo chiedere perché mi ritrovo questi polipi nasali. Ah, ho fatto delle prove allergiche agli inalanti e sono risultato negativo. Adesso mi chiedo io, nel senso, come curare questi polipi nasali? Mi conviene operare perché comunque l'otorino mi ha sconsigliato per quanto riguarda l'operazione. Sì. Oppure usare dei prodotti tipo Nasonex... di questo tipo. Sì, Antonino, ma professor Benazzo, Antonino ha ricevuto dal suo medico un'indicazione di non operarsi, lui è un po' indeciso. I polipi, possiamo dire esattamente che cosa sono? Sono sempre delle formazioni benigne e trascurati, possono darci dei problemi? I polipi, allora, per fare la diagnosi di polipi nasali bisogna sempre fare un'endoscopia, sì. Punto uno. Punto 2, i polipi sono sempre benigni, sono delle praticamente la mucosa del naso che, detto in parole molto molto semplici, mi piacciono, scientifici, si riempie di liquido, di acqua, quindi sono da vedere, io dico sempre ai miei pazienti, sembra di vedere dei chicchi di uva molto molli che se schiacci poi si spaccano pure. La diagnosi, i polipi sono praticamente quasi sempre bilaterali, cioè in entrambe le fosse nasali. Quando ci sono dei polipi monolaterali bisogna sempre stare sul chi va là e bisogna in linea di massima fare una biopsia di quella lesione polipoide per escludere che non sia un papilloma, che è una cosa diversa e che quindi va trattato in modo diverso. Quindi nessun problema se sono presenti in entrambe le cavità nasali. Esatto. Se sono solamente da una parte bisogna procedere con ulteriori accertamenti. Bisogna procedere con molta cautela e affrontare il problema e qualunque specialista otorino dovrebbe è in grado di farlo. Come si curano i polipi? La cosa più importante che io dico ai pazienti è che bisogna fare una fotografia iniziale, cioè nel momento in cui si fa la diagnosi, perché il trattamento, se chirurgico o non chirurgico, dipende dall'estensione dei polipi e da quanto è estesa la poliposi nasale. Per fare questo bisogna fare, oltre a un'endoscopia, anche un TAC del massiccio facciale, che si deve fare senza mezzo di contrasto, e questa TAC ci fa vedere l'estensione dei polipi nei seni paranasali, cosa che noi tramite un'endoscopia non riusciamo a capire perfettamente quanto è l'estensione, perché in realtà i polipi non nascono nel naso, ma nascono nei seni paranasali e poi evolvono nel naso. E a quel punto lì noi abbiamo i dati in mano per vedere se è una poliposi massiva o una poliposi invece di media entità. I trattamenti possono essere di tipo medico e di tipo chirurgico. Sì. Il trattamento di tipo medico, quando sono i polipi, sono presenti nel naso, conviene sempre fare una terapia col cortisone per via generale. Per quanto tempo? E dipende dai trattamenti, perché ci sono dei trattamenti per os, vengono fatti per una decina di giorni, oppure esistono anche delle fiale di cortisone ad alte dosi che viene fatta ripetuta una volta ogni 15-20 giorni per un paio di fiale, non di più. Non di più. Perché facciamo il cortisone? Perché anche per vedere se questi polipi rispondono al cortisone, perché spesso col cortisone si riducono quasi anche a scomparire, e poi bisogna vedere quant'è il periodo di benessere di questi pazienti, perché purtroppo i polipi tendono sempre a riformarsi. Quindi anche nelle mani del miglior chirurgo di questo mondo, sappiamo che i polipi purtroppo si riformano. Possono recidivare facilmente. Quindi l'indicazione chirurgica è un'indicazione per le poliposi di un certo tipo, per le poliposi massive, per le poliposi che non rispondono alla terapia cortisonica, ecco, per esempio. E poi nell'ambito della terapia chirurgica vanno identificati due tipi di trattamento, uno in anestesia locale e nell'altro, e uno in anestesia generale. Sì. Siamo tornati insieme, in linea con noi Michele da Cremona. Buongiorno Michele. Buongiorno. Deve abbassare un po' la radio, Michele. Niente. Sì. Volevo portare la mia testimonianza in quanto praticamente sono stato operato, diciamo, un intervento di ipertrofia per risolvere il problema di ipertrofia dei turbinati. Sì. E diciamo che tutto praticamente è cominciato con problemi di naso chiuso, che ho cercato di risolvere con questi vasodilatatori, però poi praticamente ho avuto un abuso di questi, questi farmaci, cioè, ha avuto un esito negativo. Questo, ecco, quindi anche da Michele dice, arriva l'appello, non abusatene. Michele, quindi lei si è fatto operare, adesso come sta? Sì, adesso sto molto molto meglio. Meglio. Però volevo chiedere appunto allo specialista se era comunque una cosa normale che dovessi ricorrere a dei lavaggi non così frequenti come prima, però qualche lavaggio lo devo fare lo stesso. Grazie Michele. Professor Benazzo, Michele deve continuare a fare i lavaggi anche a distanza di un mese dall'intervento? Sì, purtroppo sì, lui dovrà ogni tanto fare tenere umido il naso, perché questo è l'effetto rimbalzo di troppo abuso di farmaci vasocostrittori che lui ha fatto, quindi la mucosa dei turbinati adesso è alterata. Massimo da Trieste, a proposito di abuso, ci scrive di dire qualcosa a sua moglie che usa questo prodotto come fosse acqua del rubinetto. Per favore ditele qualcosa, mi sembra che il messaggio sia arrivato. Professore, prima di cercare di rifarci il naso, e ci raggiungerà il professor Klinger, volevo chiederle proprio un'indicazione per i tanti messaggi che stanno arrivando di ascoltatori che dicono: nonostante non abbia il naso chiuso, faccio fatica a sentire gli odori come una volta, devo metterci proprio il naso sopra. Possiamo dare un'indicazione? Questo è un grosso problema, purtroppo, perché nella parte alta del naso c'è il bulbo olfattivo, che è la porzione terminale del nervo olfattivo, con dei piccoli rami del nervo che arrivano nella mucosa della parte alta del naso, e sono dei rami molto sottili e facilmente danneggiabili da qualunque patologia di tipo infiammatorio o infettivo che è a livello del naso. Spesso per un banale raffreddore virale, su base virale, per un certo periodo di settimane o mesi, ma anche a volte per sempre, si perde purtroppo l'uso dell'olfatto. Quindi quando manca l'olfatto, comunque va sempre fatto un'endoscopia nasale, perché la mancanza, l'anosmia, cioè la mancanza dell'olfatto, è il primo sintomo dei polipi nasali o di patologie che ha la parte alta del naso, quindi un'endoscopia nasale va comunque fatta. Poi purtroppo, detto sinceramente, le armi a nostra disposizione, le armi terapeutiche a nostra disposizione sono veramente minime, perché non esistono dei farmaci. Certo, però è importante dire agli ascoltatori che quando il nostro naso inizia a non sentire, tra virgolette, più come una volta, è arrivato il momento di parlarne con il proprio medico di base, che eventualmente ci indirizzerà allo specialista. È arrivato il professor Klinger. Buongiorno professore. Buongiorno, direttore. Saluto anche professor Benazzo. Buongiorno. Buongiorno, direttore della seconda scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica dell'Università di Milano. Professore, noi abbiamo 2 minuti per raccontare ai nostri ascoltatori che cosa si può fare per cambiare il naso, magari approfittando di un naso che non funziona tanto bene. Esatto. Uniamo capre cavoli e ci rifacciamo il naso. Esatto. Io le lascio proprio 2 minuti, non intervengo di tempo, in modo che lei ci faccia una mini lezione. Esatto. Allora Nicoletta, innanzitutto, per proseguire quello che ha detto così bene, in modo così interessante, Benazzo, naso, come dire, forma e funzione del naso non sono più antitetiche, ma sono due cose che sono assolutamente coniugabili, perché gli interventi funzionali che risolvono per esempio problemi valvolari della valvola nasale sono interventi che sono a favore dell'estetica, perché in qualche modo succede che spesso riducono l'ampiezza della punta. Sì. Fanno in modo che il naso sia, come dire, leggermente più corto, ruotato, come quando si era più giovani. Sì. Anche gli interventi estetici a loro volta determinano dei vantaggi funzionali a rovescio, perché è lo stesso motivo per cui normalmente una paziente chiede di avere una punta del naso più stretta o risalita, determina spesso l'apertura della valvola e quindi con ciò dei migliori flussi. Quindi insomma vi date reciprocamente una mano, funzione ed estetica. Devo dirle che dei nasi che operiamo ce n'è almeno uno su tre, qualche volta anche di più, che sono nasi cui viene coniugata insieme sia la parte estetica che la parte funzionale, quindi questa è una cosa da tenere presente, è utile. Basta che le cose siano, come dire, desideri presenti in contemporanea, non un desiderio che cede e l'altro che non c'è, perché allora non avrebbe senso. L'altra cosa importante che mi piaceva di dirle, che è una cosa un po' più nuova, è quella che il naso ha una grande importanza nella giovinezza del volto, perché il naso è talmente centrale nella faccia, determina una faccia larga o una faccia lunga. I nostri nasi, se prendiamo le foto della nostra maturità del liceo, i nostri nasi sono tutti un po' più magri e un po' più su, quindi in 5 minuti è possibile avere un naso più carino, più corto, più magro, che torni a simulare quello di quando avevamo 18 anni, quindi questa è una cosa simpatica. Questa è bella, il naso che toglie gli anni, ci rende più giovani. Professor Klinger, io l'aspetto perché vogliamo dedicare proprio una puntata con lei a tutte le nuove tecniche oggi a disposizione, quindi professore, noi ci sentiamo tra poco. Ringrazio il professor Benazzo per essere stato con noi e per averci accompagnato. Grazie, sicuri, buona giornata. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Restate con noi perché ci ha raggiunto il dottor Marco Temporin, medico nutrizionista e specialista in medicina preventiva. Dottor Temporin, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Nicoletta. Io vorrei dedicare gli ultimi minuti della trasmissione per parlare dell'avena, che è un po' la cenerentola della grande famiglia dei cereali, eppure ha delle caratteristiche particolari che credo valga la pena conoscere, dottore. È ricca in contenuto proteico, contiene la lisina, che è un amminoacido essenziale, che è molto simile alla quinoa, un cereale americano, contiene calcio, ferro, vitamina del gruppo B, vitamina E, ed è uno dei cereali più ricchi di crusca, contenendo inoltre una mucillagine che la rende, dopo la cottura, particolarmente cremosa. Viene consumata solitamente in fiocchi, per noi viene utilizzata un po' meno, ma inizia a far parte della colazione, utilizzata assieme ad altri cereali, a dei semi oleosi e a della frutta secca, con un piatto denominato muesli. Dottor Temporin, lei ci ha illustrato le caratteristiche di questo cereale. Vogliamo allora scendere un pochino più nel dettaglio, capire a chi è consigliata l'avena e a chi invece dovrebbe evitare il consumo? Allora, sicuramente l'avena, per la sua presenza di mucillagini, è un utile e valido aiuto per pazienti che soffrono di stipsi, essendo un cereale che è ricco di grassi e proteine, ha un effetto tonico ed eccitante, quindi va molto bene nei periodi invernali, nei soggetti che soffrono di astenia, di affaticamento, negli sportivi, in cui l'avena sicuramente è un valido energetico. Però sono perfettamente d'accordo con lei, Nicoletta, non va bene a tutti, in quanto l'avena, soprattutto per i pazienti in sovrappeso o per i pazienti che hanno disturbi a livello gastrointestinale, non deve essere utilizzata. Vi è ancora, tra l'altro, un'indicazione molto importante: l'avena a tutt'oggi non è consigliata nemmeno ai soggetti celiaci. Dottor Temporini, l'aspetto domani. Grazie a voi, saluti Nicoletta. E ringrazio anche voi che ci avete seguito e vi do appuntamento a domani, a voi dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.